Domande, parte seconda. I piranha. All'inizio di questo paragrafo trovi: quello che narrano le leggende è da prendere con le pinze. Che cosa significa in questo caso l'espressione prendere con le pinze? Considerare come certo qualcosa che viene raccontato. Essere prudenti nel credere alla veridicità di qualcosa. Essere tolleranti verso qualcosa che è diverso da come ce lo aspettavamo, prestare attenzione ai dettagli di una narrazione. Dal testo si capisce che le leggende di cui parla all'inizio del paragrafo riguardano quanto i piranha siano aggressivi e pericolosi, ma poi vengono date diverse informazioni che ridimensionano, cioè indeboliscono questa idea. Scrivi una di queste informazioni, informazione che indebolisce l'idea che i piranha siano aggressivi e pericolosi. In questo paragrafo viene raccontato un episodio che coinvolge il presidente Roosevelt per spiegare perché i piranha siano tanto temuti. Indica tra le informazioni riportate sotto quelle importanti per spiegare la brutta fama dei piranha che li rende tanto temuti. Ora leggerò una serie di informazioni e tu clicca se secondo te l'informazione è importante per spiegare la brutta fama dei piranha oppure non è importante. Il fatto accadde all'inizio del secolo scorso, nel 1913. La notizia della voracità dei piranha si diffuse ampiamente perché fu data da un presidente importante. In quel tratto di fiume fu spinto un animale vivo. Dei piranha affamati divorarono in poco tempo una mucca. Il presidente Roosevelt diede la notizia sui piranha perché non sapeva che questi erano stati senza cibo per più giorni.